Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dunque, per quello che riguarda la manovra, sempre novità, devo dire che molti di voi ci stanno già scrivendo, ma insomma le liberalizzazioni si sono un po' appannate. Allora, ribadiamo il tema e poi affronteremo il capitolo della manovra anche oggi. A mio avviso si poteva, io continuo a ritenere il fondo di... Gali della Loggia, vado a memoria però, o forse la Pane Bianco, su Corriere della Sera di una settimana fa, l'analisi migliore. Perché su questo? Perché un conto è l'emergenza e il governo aveva emergenza e urgenza e quindi probabilmente anche la necessità di andare a prelevare soldi laddove era certo il gettito. Mi riferisco all'ipotesi dell'IVA, delle pensioni. E anche alla parte che riguarda la tassazione extra per le pensioni sopra i 200.000 euro. Però si poteva anche aggiungere un insieme di riforme, cioè vincolare, blindare questo decreto con un insieme di riforme che magari non fai partire subito, mi riferisco a un po' di privatizzazioni, a liberalizzazioni più insistite e anche a misure sul contrasto all'evasione fiscale, l'accordo con la Svizzera, insomma tutto un insieme che pur non approvate ora come ora restavano blindate dal testo della manovra. In assenza di queste, la politica dei due tempi, ecco perché sono d'accordo con l'editoriale, sappiamo che in Italia è difficilissima, cioè il secondo tempo non si riesce mai a fare, allora è meglio giocarsela tutta in un tempo solo e mettere un pacchetto complessivo di misure che partono, alcune partono subito perché servono a tranquillizzare i mercati, ma altre sarebbero partite più avanti, ma intanto le avevi blindate. Per quello che riguarda i tassisti, allora sui tassisti la posizione di questo programma è nota già dai tempi di Bersani, lo dico di nuovo, sicuramente non è quella una categoria in cui le liberalizzazioni ottengono chissà quale effetto, dopodiché perché sappiamo tutti che non è, cioè, dire che il problema della mancata concorrenza in questo paese si risolve con i taxi è una cavolata. Detto ciò, ogni tanto anche i tassisti potrebbero leggere attentamente tra le righe quello che viene detto. Le situazioni sono molto diverse, che tra le grandi città, dove oggettivamente c'è un alto numero di taxi e anche guadagni spesso più bassi, e città medie o piccole in cui in molte occasioni manca anche il servizio. Ma detto ciò, le manifestazioni spontanee di venerdì sera che hanno bloccato cittadini che arrivavano a Linate piuttosto che a Fiumicino, spontanei, quindi sciopero non annunciato, sono sbagliate, anche perché poi dentro la manovra io non avevo visto tutta questa riforma dei taxi. Ma ribadisco, mi sembra che se si vuole parlare seriamente di liberalizzazione si debba partire dagli ordini professionali, incluso quello dei giornalisti, si debba partire da mettere in concorrenza tutte, comprese le municipalizzate, comprese i servizi di energia e del gas, poi si può parlare anche delle licenze dei taxi. Non mi sembra quello il gran elemento, insomma, per le liberalizzazioni, e ecco perché tutto sommato si crea polemica per nulla. Caso diverso invece è il fronte delle farmacie, perché su quello in effetti la liberalizzazione prima di Bersani, molto osteggiata dai farmacisti, quella per i farmaci da banco, ha avuto invece successo. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve, di nuovo la puntata sarà dedicata alla manovra, di cosa volete che parliamo, tranne un approfondimento su una classifica sulle società che innovano di più e che hanno aumentato di più il loro valore negli ultimi anni. Con sorpresa ci c'è anche qualche italiana, purtroppo non sono tantissime le italiane, ma insomma ogni tanto cerchiamo anche di raccontare i casi virtuosi in questo periodo, sicuramente che di virtuosismi ne vede pochi. Le notizie in breve. Sì, vedo ancora l'ICI sulla Chiesa. La posizione nostra la conoscete, cioè basta interpretare la legge e chiarire una volta per tutte quali immobili della Chiesa Cattolica sono esenti da ICI in quanto luogo di culto e quali no. Ne abbiamo parlato svariate volte, anche su questo un po' più di coraggio poteva mettercelo il governo Monti, siamo d'accordo, un po' più di coraggio anche nella lotta all'evasione, un po' più di coraggio anche su una patrimoniale, magari non toccando altri elementi, ma toccando sì i patrimoni con una soglia molto alta, per carità. Ecco, possiamo dirla tutta senza che Monti si offenda, e fermo restando che il governo precedente, il governo Berlusconi, manco la riforma delle pensioni riusciva a fare perché c'era l'opposizione della Lega, cioè ricordiamoci da dove veniamo, in cui c'era una paralisi completa dell'attività di governo, però a Mario Monti un po' di fantasia in più. Molti di voi ci scrivono sul contrasto all'evasione fiscale, per esempio, perché sappiamo tutti che le auto di grossa cilindrata sono spessissimo intestate alle società, pur essendo dei privati, e pur essendo utilizzate dai privati. Ci sono 1 milione di auto in Italia che hanno una cilindrata superiore ai 2500 cc, no? E in un paese in cui l'imponibile medio è 18.000 euro, allora perché non fare una, come scrivono molti ascoltatori, una norma per cui sopra i 2000 cc, sopra i 2005 cc, l'auto non può essere intestata alla società? Io penso che con 2000 cc uno possa avere un'auto di rappresentanza, e se no, tranne che per le auto blindate, per motivi di sicurezza. Così vediamo quanti SUV sono delle società e quanti SUV vengono invece utilizzati in maniera privata, ma fatti ricadere sulla società. E magari per redditi, non me li fate rifare i redditi, perché sennò poi mi arrabbio di nuovo. Ieri un errore l'ho commesso anch'io, però i ristoratori non dichiarano 18.000 euro lordi, dichiarano in media 13.500 euro lordi. Dopodiché, sempre sulla manovra, ma adesso ne parliamo, è chiaro che questo è un governo tecnico come membri, ma politico come appoggio, per cui se c'è un veto del PDL o un veto del PD, tutto si blocca. Penso alla patrimoniale, ma penso anche a altre novità. Però il coraggio sta in quello e la fantasia sta in quello, nel dire scusatemi, se ci bloccate questo, casca il governo e poi vi assumete le responsabilità. E allora un po' più si poteva osare, Vabbè, oro sotto i 1.600 dollari per la prima volta dal 2 ottobre, petrolio in calo 98 dollari, le borse non vanno bene, Parigi è quella che perde di più, il 3%, Milano meno 2,60%, Francoforte meno 1,50%, Londra meno 2%, l'America perde lo 0,91%, l'euro è sotto quota 1,30 anche oggi, a 1,29,65, di nuovo tra i titoli che più cedono, Fondiere Assai, che ormai è un classico, meno 5,45% a 76 centesimi di euro, Generali meno 5, Fiat, e parleremo anche della presentazione della nuova Panda, comunque meno 5% sia Fiat che Fiat Trattori e Camion, cioè Fiat Industrial, UbiBanca meno 5, Saipem meno 4,80, A2A meno 4,30, Mediaset meno 4,20, Mediobanca meno 4 come Tenaris, il 3,90 lo perde Mediolanum, il 3,5 Finmeccanica e Azimut e anche Tods. Chi guadagna? Due banche, la Popolare di Milano più 5, la Popolare Emilia Romagna più 2,5%, segnalo anche che Intesa San Paolo, come ieri, oggi perde meno del settore, meno 0,50%, e anche Unicredit perde meno delle prime banche che ho citato, perde il 2,5%. Negativi però oggi anche gli energetici, Eni meno 2,22%, Enel meno 2,45%. In tema di petrolio, l'Eni oggi ha reso noto con un comunicato di aver firmato assieme all'altro operatore British Gas e alle compagnie interessate un accordo col Kazakistan che prevede l'ingresso della compagnia petrolifera locale Kazmunai Gas nel consorzio kazako incaricato di sviluppare il giacimento che si trova nella parte nord-occidentale del Kazakistan e da un giacimento enorme di gas, un giant come dicono in gergo. Da questo accordo ci si attende a questo sfruttamento un sostanziale incremento della produzione di liquidi e di gas. Per quello che riguarda invece la vicenda europea, è insomma nebbia sulla manica e il continente isolato. Perché? Perché Downing Street ha fatto sapere, quindi il governo britannico, che non contribuirà con 50 miliardi di euro al fondo d'emergenza del Fondo Monetario Internazionale. Lo ha detto il portavoce David Cameron, quindi non no a 50 miliardi all'FMI per aiutare i paesi in difficoltà. Angela Merkel si è detta dispiaciuta del no della Gran Bretagna per la mancata adesione al patto di bilancio, però ha ribadito che la Gran Bretagna resta un partner importante. Secondo Angela Merkel il tetto invece del fondo europeo resterà a 500 miliardi di euro, quindi non salirà. E poi Angela Merkel ha ribadito, interveniva al Bundestag, non abbiamo fatto, per fortuna abbiamo evitato l'errore di fare gli euro bond. Sì, certo, la Merkel ha vinto su tutta la linea, non poteva che rivendicare la sua vittoria. Da Roma, ha detto sempre la cancelliera tedesca, sono arrivate importanti misure di risparmio e di riforme strutturali. E però anche la Germania. La Germania rallenta. Già l'OCSE due settimane fa aveva stimato uno 0,6% contro un 2,5% di crescita l'anno prossimo. Adesso l'IFO, che è l'Istituto Tedesco di Ricerca Economica, ha rivisto radicalmente le stime al ribasso, anche lui, dal 2,3% allo 0,4%. Quindi Germania in stagnazione per la prima volta l'anno prossimo. Attenzione ai tedeschi a ritenersi troppo diversi dal resto d'Europa. E poi la battuta fuori onda di Nicolas Sarkozy, che ha fatto il giro dei siti internet, insomma, quando Sarkozy ha detto ad alcuni fedelissimi domenica scorsa, cioè l'11 dicembre, fuori onda, perderemo sicuramente la tripla A, riferendosi al voto che la Francia ha già minacciata da Standard & Poor's e Moody's di perdere la tripla A. E poi ha anche criticato il premier britannico Cameron, definendolo un bambino cocciuto. Ancora il premier polacco Donald Tusk ha detto l'Europa è sull'orlo del precipizio, e ringraziamo, ce ne eravamo accorti. E il Fondo Monetario Internazionale sarà in missione in Italia la prossima settimana, vi do gli ultimi aggiornamenti. E poi spread e tassi interessi sulle nostre obbligazioni. Allora, collocati oggi 3 miliardi di euro di BTP a 5 anni, il tasso è altissimo, 6,47%, cioè fortunato chi se li ha comprati, perché rendono 6,47%, sfortunato chi li deve collocare, quindi lo Stato italiano, perché tocca pagare un rendimento che così alto non si vedeva dal maggio del 97, maggio 97, giusto per capire la gravità della situazione, altro che ristoranti pieni qui. Allora, vedo che poi lo spread, però 20 minuti fa ha sfondato quota 480 punti. Dice il ministro del Tesoro che potrebbe essere dovuto anche in questo rialzo a fattori tecnici, l'aggiornamento delle piattaforme elettroniche. Vabbè, dai, stiamo a scherzare. Adesso, la piattaforma elettronica peserà pure, ma 480, ieri era 460, lo spread resta altissimo. Non è a livello di 570 punti dell'11 novembre, un record imbattuto, speriamo resti imbattuto, però 470 punti non si reggono. E appunto oggi, per riuscire a trovare compratori sul debito italiano, l'Italia ha dovuto offrire il 6,47% di rendimento sulle obbligazioni a 5 anni, e quello ormai le devi pagare per il prossimo, a scadenza. Pur essendo solo 3 miliardi, ripeto, un livello che non si vedeva dal maggio del 1997. Poi c'è un dato sulle famiglie italiane della Banca d'Italia, che comunque sono le più ricche del G7. Andiamo bene, proprio bene. Ma non sto scherzando, la Banca d'Italia ha pubblicato un dato che è riferito però a fine del 2009, quindi è vecchio di 2 anni. La ricchezza netta delle famiglie italiane era 8,3 volte il reddito disponibile lordo in un anno. in Gran Bretagna è meno, è 8 volte, cioè quello che è il tuo patrimonio, la tua ricchezza rispetto a quello che è il tuo reddito in un anno. In Italia è 8,3 volte, in Gran Bretagna è 8 volte, in Francia è 7,5, in Giappone è il 7, in Canada è il 5,5, il 5 è 5 volte negli Stati Uniti. Certo, anche la Banca d'Italia ha notato che dal 2007, che è l'anno del picco sulla ricchezza delle famiglie, la ricchezza netta è diminuita del 3,2% a 8.640 miliardi di euro ed è scesa di un altro punto e mezzo nel 2010. La distribuzione di questa ricchezza come messa? È abbastanza in linea, non si è molto mossa, ed è abbastanza in linea con l'Europa. Cioè la metà più povera delle famiglie detiene il 10% della ricchezza totale, il 10% più ricco degli italiani ha quasi il 45% della ricchezza complessiva e appunto il 50% delle famiglie più povere invece ha il 9,8% della ricchezza. Non si sono mosse queste proporzioni nel 2008-2009 rispetto agli anni precedenti. Stima la Banca d'Italia che il risparmio per ogni, il patrimonio per ogni italiano sia di circa 400 mila euro. Anche qui attenzione però alla media di Trilussa, per alcuni sarà 1 milione, per altri sarà 200 mila. Boh, 349-238-6666 per i vostri sms. Primo tema, la manovra, le novità della manovra e anche la contestazione in Parlamento. Devo dire, nei modi non sono modi, però il Parlamento esiste anche perché chi non appoggia il governo possa contestarlo. La Lega poi certo non è che abbia dei modi proprio da educande. Partiamo con la manovra, vai. Allora, vedo che molti mi vogliono convincere che quello che ho detto sulle auto di grande cilindrata, ragazzi, cioè, se c'è la crisi c'è per tutti. Con 140 miliardi di imponibile evaso, cioè di 200 miliardi di imponibile evaso e 120-140 miliardi di minor gettito per lo Stato, sappiamo tutti, è inutile che ce la raccontiamo, che molte delle auto di grossa cilindrata che vediamo in giro, sono più di 1 milione quelle sopra 2500 cc, sono intestate alle società, ok? Allora, se è la società che le usa, va bene, ma siccome poi sappiamo che in molti casi è un modo per sfuggire al fisco, poniamo un tetto, un'asticella, fino a quanto si possa, 2000-2005, la società può avere una macchina del genere e poi andiamo a controllare se la usi il weekend, se la usi solo per andare a casa al lavoro. Ho capito, alcuni rosicano, mi dispiace. Allora, prima grana parlamentare per il premier Monti, prima per modo di dire, contestato in aula dal Senato dagli esponenti della Lega, basta tasse, non è una manovra, è una rapina, attaccato anche il presidente Schifani. Sentiamo questo educativo e costruttivo passaggio del dibattito del Senato. Siamo molto interessati a utilizzare pienamente il posto che ci è stato offerto di occupare di recente accanto alla Francia e alla Germania in un concerto di nucleo interno dell'Unione Economica e Monetaria Europea. Dottore Bricola, ma che c'entrano le tasse per ora? La prego, stiamo parlando di Consiglio d'Europa. Senatore Bricola, lei è il presidente di gruppo, la richiamo. Per cortesia, togliete questi cartelli commessi. Togliete questi cartelli. Tolgo. Togliete questi cartelli. Senatore Bricolo, la richiamo all'ordine, faccia togliere questi cartelli nella sua qualità di presidente di gruppo. Faccia togliere questi cartelli. Avanti, va bene. Basta, basta. Basta, è una sceneggiata veramente mortificante per il Senato questa. Basta. Basta. E poi gli interventi di Mario Monti, una nota la devo dire, però visto che abbiamo detto che il governo Monti poteva anche osare di più, più fantasia, agganciare al pacchetto di misure emergenti anche misure più di medio termine, liberalizzazioni, privatizzazioni, contrasto all'evasione con formule nuove, poca fantasia, poco coraggio. Però fatemi dire una cosa anche sulla Lega. Allora, voglio dire, è comodo adesso fare l'opposizione dopo che hai fatto il governo per 3 anni, hai bloccato qualunque riforma possibile. Ma qualcuno se lo ricorda che la Lega ha bloccato il ripristino dello scalone Maroni, che si chiamava così perché l'aveva fatto il ministro Maroni, poi il centrosinistra, in maniera, a mio avviso, assolutamente sbagliata, lo levò, e poi tu non vuoi rimettere una riforma delle pensioni che ha il nome del tuo ministro? Allora, questo era l'atteggiamento costruttivo della Lega. Comodo adesso metterci lì con i cartelli basta tasse. Dici tu cosa avresti fatto, a parte la separazione del Nord Italia dal resto del paese, perché siamo tutti capaci, cosa avresti fatto per far uscire l'Italia dallo spread a 570 e fare una manovra credibile e non essere travolti senza riuscire a collocare obbligazioni. Troppo comodo stare al governo e fare la Lega di lotta di governo. Cambiata anche per loro il clima. Oggi sono imbestialito. Dino Pesole, buonasera. Buonasera. Adesso, però voglio dire, no, capisci, va bene criticare Monti, l'abbiamo criticato, a mio avviso troppo timida su molti punti questa manovra, però anche lì far finta che tu improvvisamente scopri l'opposizione dopo che hai fatto 3 anni di governo e l'hai fatto anche nella legislatura precedente, anche la Lega si prendesse le sue responsabilità. Allora, le ultime novità, andiamo punto per punto, pensioni, casa, risparmi e capitali. Visto che però il metro, prima ti chiederei un commento complessivo, siamo veramente alle ultime novità, perché quando io ho visto arrivare 1400 emendamenti, purtroppo il déjà vu è andato sulle vecchie manovre, i vecchi modi di fare le finanziarie. Dino. Dovremmo essere agli ultimi, anche perché se queste modifiche che sono state introdotte ieri sera, questa notte, verranno poi, confluiranno poi in un maxi emendamento sul quale viene posta la questione di fiducia, e a quel punto la partita è chiusa, il Senato varerà il testo così come modificato e via, si va a Natale, e quindi sostanzialmente questo passaggio dovrebbe essere ultimativo. Certo è che c'è stata una certa fatica nel mettere a punto queste misure, da un certo punto di vista anche comprensibile, perché poi Monti si è trovato a dover mediare tra 3 forze politiche che lo sostengono, che in qualche modo chiedevano a loro volta misure di correzione, che ritroviamo infatti degli emendamenti che sono stati apportati. Io penso che a questo punto, anche per dare un segnale ai mercati, dovremmo tutti dichiarare chiusa la partita, ci teniamo questa manovra con i suoi pregi e i difetti e voltiamo pagina. E qui si tratta di voltare pagina rapidamente, perché il nostro paese l'anno prossimo andrà in recessione, quindi non si può più pensare solo esclusivamente a manovre di finanza pubblica. Questo è il punto fondamentale. Sì, ed è quella parte che dicevo all'inizio in maniera molto meno precisa di te, e cioè si poteva agganciare a questo maxi emendamento, oltre alle misure urgenti, come un medico che ti dice prendi subito l'antibiotico, però poi non ti dice solo prendi l'antibiotico, ti dà anche qualche indicazione su come cambiare stile di vita, cosa fare per non ricascarci. Insomma, e fare in modo che si creino anche degli anticorpi non sempre eccezionali, passami la definizione. Dopo il meteo vediamo i vari punti, invece pensioni, casa, risparmi e capitali, compresa la Tobin Tax e anche il fronte liberalizzazioni. Devo dire, vedo alcuni leghisti arrabbiati, mi dispiace, però insomma, il senatore Bricolo ha fatto parte del governo fino a un mese e mezzo fa, è inutile che vi arrabbiate. Se mi dite qual è, se mi fate sapere qual è la posizione della Lega per uscire da questa crisi, dove erano le riforme della Lega, che cosa avrebbe riformato, cosa avrebbe toccato, io ne prendo atto, non le abbiamo viste, è da maggio che ci dilettiamo sulle manovre possibili, da quando è arrivato l'attacco ai debiti anche italiano oltre che spagnolo, io non le ho viste. Meteo, pubblicità. Focus Economia. 17:38 minuti. Allora, arriveremo anche a commentare la borsa, meno 2,84%. Vedo che qualcuno mi ha risposto. La Lega proponeva il federalismo. Siamo d'accordo, abbiamo spesso anche parlato dei costi standard come elemento, a mio avviso, che non va perso, anzi, porta un po' di pulizia in un paese in cui i costi della sanità da soli rappresentano il 70% del buco del patto di stabilità interno. E questo 70% è attribuibile sostanzialmente a 3-4 regioni, di cui 3 regioni del sud. E i costi standard erano corretti, si è bloccato tutto con la caduta del governo, ma i costi standard sono un percorso che andava a regime nell'arco di 5 anni. Io ho chiesto quali misure avesse proposto la Lega fino a un mese fa al governo per dare un po' di sicurezza e garanzia ai mercati adesso, non fra 5 anni, in un percorso, a mio avviso, giustissimo come quello federale, che la sacca di plasma debba costare uguale tra Aosta e Reggio Calabria, non ci sono dubbi. Comunque, Dino Pesole, il giudizio sulla manovra. Allora, le pensioni, vediamo se c'è un po' di chiarezza almeno oggi. Le pensioni, la rivalutazione al 100% confermata fino a 1.400 euro mensili, no? Sì, esatto, questa mi sembra la novità più rilevante, che di fatto salva, per così dire, da questo intervento, che era tra i più controversi della manovra, insomma, una buona parte, secondo calcoli, delle associazioni dei pensionati, oltre il 70% dei pensionati dovrebbero essere salvaguardati, fermo restando che questa è una misura ponte, perché per ora è previsto il 2012 come indicizzazione totale fino ai 1.400 euro, che poi equivale a 3 volte il minimo, considerando peraltro che poi si sta parlando dell'adeguamento all'inflazione, quindi sono veramente cifre modeste. Però comunque, insomma, è un segnale. Questa mi sembra la novità più rilevante. L'altra novità è il prelievo del 15% per gli assegni pensionistici oltre i 200.000 euro, che peraltro si aggiunge a quanto già la manovra di luglio aveva previsto. C'erano due contributi di solidarietà del 5-10% su 90.000 e 150.000 euro, quindi questo è un ulteriore elemento di novità. Sì. Le due questioni principali sul fronte previdenziale mi sembrano queste. Sono queste, sì. E i contributi degli autonomi che salgono dall'1,75% al 24%. Sì, e poi ci sono anche altre questioni che sono state introdotte negli emendamenti, vale a dire si sono valutate alcune singole situazioni. Ad esempio, anche noi come giornale l'abbiamo registrato, perché stanno arrivando valanghe di lettere e segnalazioni. C'era il problema di una sorta di scalone che si sarebbe determinato per i nati nel 52. Adesso si è trovato quello di cui parlava ieri il ministro Fornero, no? I nati nel 52 che diventavano un po' come la generazione che è nata all'inizio secolo, famosa la leva dei diciottenni, la pagavano per altri. Allora, la casa, detrazione IMU, questa è confermata, l'abbiamo raccontata ieri, per ogni figlio sotto i 26 anni 50 euro in più oltre i 200, e imposta di bollo dello 0,76% sul valore degli immobili posseduti all'estero. Ancora i risparmi, eliminato il bollo, ecco qui, di 34 euro per i conti correnti sia bancari che postali con giacenze fino a 5.000 euro, sopra i 5.000 euro il bollo resta a 34,2, giusto? Esatto. Sale però per le persone giuridiche. Varia per le persone giuridiche, passa da 78 a 100 euro, questa è una clausola di copertura in qualche modo. E secondo quello che ha spiegato il governo ieri sera, perché poi a un certo punto si era creata una certa confusione. Ah beh, perché, ieri ti assicuro che condurre questo programma con queste agenzie che uscivano è stato un delirio. Un delirio, sì. Anche perché a un certo punto si pensava che fosse raddoppiato. Francamente sarebbe stato una cosa che ci riportava indietro in anni diversi di crisi come il 92, quando ci fu il prelievo sui conti correnti. A un certo punto c'è stata questa voce che è girata. Per fortuna poi il governo ha chiarito che in realtà il bollo, quello resta, perché il bollo sugli estratti conto non muta, viceversa vengono esclusi, diciamo, i movimenti sotto i 5.000 euro. di conseguenza è una misura tutto sommato che sì, può anche essere accettata. Il problema è appunto che resta il limite alla tracciabilità e questo anche sta creando una serie di interrogativi, perché obiettivamente c'è anche gente che scrive da noi al giornale, anche alla radio, immagino arriveranno quesiti di questo tipo. Ma noi andiamo in banca e possiamo versare più di 1.000 euro? Beh, certamente, quello è il conto corrente personale. No, adesso... Il problema riguarda i pagamenti. Ma sai, in questi casi... No, hai ragione. È sui pagamenti che devono essere fatti via assegno e non più via contanti. Dopodiché, anche lì, da qualche parte questa evasione bisogna prenderla. Io lo so che può essere sgradevole non poter dare 1.200 euro in contanti, però siccome sappiamo che con i contanti passa il nero... Non dire che ci giriamo attorno. Vabbè. I capitali, già ci stavi arrivando. Allora, tasse dell'1 per 1.000 sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia. E poi l'1% sullo scudo fiscale nel 2012, l'1,3 nel 2013. E poi ogni anno in modo permanente il 4 per 1.000 delle attività finanziarie scudate. Se vuole mantenere l'anonimato. Ci siamo su questo, no? Sì, ci siamo, assolutamente questo è il dispositivo che è stato apportato al testo originario, è chiaro l'idea, insomma, reperire, recuperare più gettito per consentire certo di compensare le operazioni che sono state fatte sulle pensioni. Qua adesso vedremo come sarà, se sarà realizzabile effettivamente, perché ricordiamo tutti che i capitali scudati sono protetti all'anonimato, è pur vero che gli intermediari conoscono perfettamente... Sì. Quanti hanno scudato, ma la cosa non sarà proprio semplicissima. Non a caso i tecnici della Camera hanno evidenziato la scorsa settimana che ci possono essere problemi applicativi, quindi vediamo, ma comunque l'intendimento è questo. E poi l'altra novità su questo fronte è che Monti oggi al Senato ha annunciato un'apertura, e questa è una differenza rispetto al governo Berlusconi, rispetto all'ipotesi di una tassa sulle transazioni finanziarie. Ecco, sentiamolo Monti, sentiamo Monti proprio, perché Berlusconi era contrario alla Tobin Tax, cioè a tassare le transazioni finanziarie, che è una linea che sta prendendo piede in Europa ed è anche uno dei motivi di dissenso della Gran Bretagna, che vuole tutelare la City anche su nome come queste. Monti invece ha aperto a una tassazione sulle transazioni finanziarie. In sede europea si è sottolineato che un modo per avere meno tasse su imprese e famiglie è anche quello di non considerare, al di là di ogni ipotesi, la tassazione sulle grandi operazioni finanziarie. E volevo segnalare che questa è una decisione europea, ma ho notificato in sede europea che l'Italia è disposta a cambiare la propria posizione. L'Italia e tradizionalmente e il precedente governo italiano in particolare in sede europea avevano tenuto una posizione, a differenza di Francia e Germania, contraria all'ipotesi della tassazione sulle transazioni finanziarie. Allora, c'è un ascoltatore che scrive: ma voi Saputelli dove eravate mentre si generava il debito? Vorrei sapere che età, ma non per farmi i fatti suoi, che il debito italiano si è generato tra gli anni 80 e gli anni 90. Sarebbe anche interessante sapere cosa ha votato lei in quegli anni. L'hanno generato i governi del pentapartito, se ve le ricordate. E poi negli ultimi 10 anni eravamo qui a raccontare come andava il debito, a raccontare cosa dovevano fare le imprese, le banche, i giornalisti, il paese, la classe politica per rimettere in piedi questo paese, mentre però c'era qualcuno che diceva: no, sono giornalisti disfattisti, va tutto bene madama la marchesa, l'Italia è diversa dagli altri, Dino Pesole, dopo il traffico vorrei commentare invece il capitolo liberalizzazioni, perché qua io veramente ho capito solo che per ora sono salvi i taxi, e ripeto, non mi sembra né in un senso né nell'altro un elemento epocale. Vorrei capire sulle farmacie e sugli ordini professionali, perché non ho le idee così chiare, lo ammetto. Allora, traffico e poi l'ultimo intervento di Dino Pesole, poi la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Oh, Allora, le liberalizzazioni. Ti lancio su questa dichiarazione del leader del PD Bersani, che ha detto 2 ore fa: siamo stupiti, se non stupefatti, dalla debolezza del governo, che il PD appoggia, sul tema delle liberalizzazioni. Su questo la questione è ancora aperta. Allora, taxi no. Mi sembra che anche sulle farmacie ci sia una parziale retromarcia, quindi farmaci di fascia C. Esatto, c'è una parziale retromarcia, sicuramente c'è stato nel passaggio tra la prima versione del decreto e il primo esame in commissione, come dire, una certa pressione dei vari gruppi, vogliamo chiamare lobby, per carità, è un termine nobile. No, la cosa che sicuramente però va ricordata è che a un certo punto si era anche ipotizzato, e c'era anche una norma, che spostava l'intero pacchetto al 2013, intanto, ed è questo un elemento su quale ha insistito molto ad esempio il Terzo Polo, e cioè la necessità che comunque venisse il capitolo liberalizzazioni venisse confermato dal prossimo anno. Nel frattempo sono state ammorbidite alcune misure, quelle cui facevi riferimento te, e certamente da questo punto di vista si poteva tentare di più. Io credo che questo sia il punto fondamentale, e all'inizio della nostra conversazione parlavamo della necessità di spingere sulla crescita, e beh, questo è un elemento fondamentale, perché... Ma sì, allora io dico un esempio, io non ce l'ho con i farmacisti, ci mancherebbe, però quelle liberalizzazioni molto timide fatte da Bersani, a detta del presidente, dal loro presidente dell'antitrust Catricalà, praticamente ha definito la liberalizzazione delle farmacie, quella che prevede che le parafarmacie possono vendere i farmaci non da ricetta, la migliore liberalizzazione realizzata. Il calo dei prezzi dei medicinali da banco è stato del 20%, più 3.500 ne ho assunti. Questo vuol dire, lo dico a chi ci scrive, cosa vuol dire far crescere un paese con le liberalizzazioni, con la concorrenza? Vuol dire che il cittadino ha pagato un 20% in meno di questi farmaci, perché tutti si sono messi a fare promozioni, anche i farmacisti. E poi si è creata anche un po' di occupazione, semplicemente permettendo maggiore concorrenza su questo. Allora, Dino Pesaro, io ti ringrazio, il commento tuo era già netto, mi ci associo completamente, un po' più di coraggio sulle liberalizzazioni, Monti, ma cosa c'è da rischiare? Tanto, voglio dire... No, anche l'intervento di Monti è un po' involuto sempre, non come, vabbè, quello è il suo stile. Però cos'hai da rischiare? Tanto se ti buttano giù a questo punto se ne prendono la responsabilità i partiti. Liberalizza gli ordini professionali, ma sì, avvocati, tariffario minimo, giornalisti, tutto, sapete come la pensiamo. Allora, la nostra Anna Marino sulle farmacie, nel ringraziare Dino Pesole, ha raggiunto prima chi rappresenta le parafarmacie, quindi Vincenzo De Vito, presidente del Movimento Nazionale Liberi Farmacisti, e poi anche chi rappresenta le farmacie tradizionali. Sentiamo prima De Vito. È una posizione di assoluto scontento. Qualcuno ha perso questa battaglia, l'ha persa nei confronti della casta, però li ha persi anche agli occhi dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica si aspettava tanto da un governo tecnico, perché hanno manifestato una grande lampante debolezza nei confronti di chi detiene realmente il potere in Parlamento, che sono le lobby e le corporazioni. Che cosa è stato cambiato che per voi ha determinato questa posizione? Noi avevamo capito, compreso, intanto è stato l'annuncio di Monti, questo, di Passera, che tutti i farmaci di fascia C, escluso alcune categorie tipo le benzodiazepine, sarebbero passati nelle parafarmacie. Inizialmente è venuto fuori un blocco, cioè al di sopra dei 15.000 abitanti, poi si è passata ai 12.500 abitanti e poi si è passato che questi farmaci non verranno fuori dalla farmacia, se non alcune piccole confezioni che già venivano vendute senza ricetta in farmacia. Rimane perciò qualche margine di liberalizzazione oppure no? Solo il governo può cambiare in aula quello che è stato deciso votando questo emendamento di vergogna. E l'emendamento a cui fa riferimento il presidente del Movimento Nazionale Liberi Farmacisti è quello che praticamente fa sì che il via libera alla vendita dei farmaci di fascia C fuori dalle farmacie potrà avvenire solo con un decreto del Ministero della Salute che fisserà regole di standard strutturali, organizzativi e tecnici per i punti vendita, esclusi i farmaci tra cui quelli del sistema endocrino come la pillola anticoncezionale e quelli iniettabili. Chiaramente è diversa la posizione di Federfarma, che rappresenta le farmacie. Il segretario nazionale Alfonso Misasi, sempre al microfono della nostra Anna Marino. Non abbiamo mai fatto un fatto di tipo economico solo. Noi abbiamo detto che sarebbe stato l'unico paese al mondo dove la ricetta veniva esitata fuori dalla farmacia. Il pericolo è legato non al fatto, perché altrove c'è pure il farmacista, il fatto che la farmacia è sottoposta a tutta una serie di rigide regolamentazioni. Dire invece, in Italia sono pochi i farmaci vendibili senza ricetta, bisogna allargarli, ma questo ne prendiamo atto con tranquillità. Quindi voi come vi comporterete? Se ci fosse da dover protestare perché non siamo riusciti evidentemente fino ad oggi a trasferire quello che è la nostra richiesta e il nostro pensiero, sicuramente è percorribile anche quella strada lì. Adesso c'è il GR, poi la borsa. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche di nuovo chiaramente a un commento e lettura complessiva delle novità della manovra, che dovrebbero essere a questo punto definitive, anche se Bersani ha detto che sulle liberalizzazioni si attende di più, però la borsa e poi di nuovo vedo moltissimi messaggi sulla manovra, non riusciremo a rispondere a tutti, però di nuovo anche la manovra finanziaria. 349-238-6666 per i vostri sms. Meno 2,84% Milano, meno 3,33% Parigi, meno 1,70% Francoforte, meno 2,20% Londra. L'America perde un punto percentuale, l'euro, come ricordavamo, è sotto quota 1,30, 1,29,70. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, ci sono due casi oggi però, visto che tutte le borse sono negative. La Popolare di Milano più 4,21% e anche l'Emilia Romagna più 1,23%. Sì, per quello che riguarda la Banca Popolare di Milano, oggi terminava l'inoptato dell'aumento di capitale, per cui si è concluso l'aumento di capitale, c'erano ragioni tecniche che hanno spinto a questo rialzo, ma c'era anche il fatto che il mercato continua a concentrarsi sulla nomina del nuovo consigliere delegato che dovrà guidare l'istituto. C'era un mandato a una società di cacciatori di teste che ha completato la prima parte del suo lavoro, quindi il nuovo amministratore delegato potrebbe arrivare a breve, e queste due notizie oggi hanno portato acquisti sul titolo. Per quello che riguarda la Biper non c'è nessuna notizia particolare, se non il fatto che era stato uno dei titoli più penalizzati nei giorni scorsi, quando c'erano state massicce ondate di vendita sui bancari, per cui negli ultimi due giorni ha fatto leggermente meglio del resto del comparto. Ancora invece, dopo il taglio del voto del giudizio dell'agenzia di rating Fitch, sia su Fondiari Assai che su Generali non ci si aspettava grandi cose, e infatti Fondiari a meno 6%, Generali meno 4,91%. Sì, diciamo che la decisione, almeno spiegavano questa mattina gli analisti, trova un fondamento nelle continue pressioni sui debiti, che sono poi sui debiti sovrani, che sono poi le ragioni con cui Fitch ieri aveva motivato il suo abbassamento del giudizio, e in borsa oggi si è fatto sentire. Ancora su altri titoli, Fiat, oggi Marchionne ha presentato la nuova Panda, ieri l'accordo per tutti gli 82.000 dipendenti del gruppo. I titoli però sono pesanti, meno 5,48 Fiat Auto e meno 5,1 Fiat Industrial, cioè sono il secondo e il terzo peggior titolo. Sì, diciamo che oggi è stata una giornata caratterizzata dalle vendite su tutto il comparto auto europeo, dopo che Peugeot ha annunciato sostanzialmente di attendersi una perdita molto pesante nel secondo semestre, e questo è andato un po' a incidere su tutti i costruttori. Fiat non è rimasto escluso da questa ondata, nonostante l'amministratore delegato Marchionne abbia comunque confermato i target per il 2011. Allora, c'è la notizia di cronaca, ve l'abbiamo raccontata nei GR, si è dimesso Mentana per uno scontro molto duro con il CDR, come comitato di redazione del TG che dirigeva. C'è una ripercussione però anche in borsa di queste dimissioni. Sì, perché Telecom Italia Media ha perso il 3,74%. Dopo le prime voci, veloci dopo i primi annunci che Mentana si era dimesso, il titolo aveva perso addirittura, era arrivato a perdere il 6% ed era finito anche in asta di volatilità, poi si è leggermente ripreso sul finale, però questa, queste dimissioni hanno avuto un impatto considerevole oggi in borsa. Beh, poi dicono che i direttori non contano, contano anche, anche per la borsa, il caso di Mentana sulla 7 poi è un caso molto particolare, però insomma. Andiamo avanti con altri titoli. Autogrill tiene dopo i dati, in effetti il titolo si è mosso abbastanza bene, c'è meno 0,42 in questa giornata, è un abbastanza bene. Lì c'è notizia di mercato? Sì, su, su Autogrill c'erano i dati sul, sul traffico nel, negli aeroporti in Spagna, dopo quello sugli aeroporti nel Regno Unito del, del giorno prima, dati che sono stati sostanzialmente in linea con le attese e che almeno nella, nella prima parte della giornata avevano premiato il titolo, poi sul finale col peggioramento generale delle borse anche Autogrill ha ceduto lo 0,42%. Che è successo a SEAT? Perché faceva un più 4%, oggi dovrebbe arrivare la risposta delle banche, tra l'altro, sul salvataggio, poi? E poi si è sgonfiata sul finale perché ha chiuso a più 1,77%, si attende ancora in questa fase almeno di capire se c'è una, se è stato raggiunto o meno un accordo con le banche per il salvataggio del gruppo, è probabile a quello che circola così sul mercato, che non ci sia un accordo totale col 100% degli istituti e che possano essere necessarie trattative supplementari. Allora, migliori e peggiori in assoluto: Cogeme più 23,81, Keplicit più 14, CSP più 4,80, fronte opposto Toscana Finanza meno 9,90, Fondiera Sai sulle risparmie meno 8,86, Brioschi meno 8,74, Crédit Agricole meno 7,86, i bancari a cui accennavamo, cioè quelli più negativi, si chiamano oggi UbiBanca meno 4,81, Mediobanca meno 4,40%, anche Unicredito ha sofferto, o meglio Monte dei Paschi meno 1,90, Banca Popolare meno 2%, Intesa meno 1,16%, Unicredito meno 3,31%. Segnalo deboli oggi anche gli energetici, Saipem meno 4,84%, A2A meno 3,91%, Enel meno 3% ed Eni meno 2,15%, Enel Green Power meno 2,22%. Grazie Guido Marino, Radio Colle sulle 24 ore. Noi torniamo a parlare della manovra. Chiedo venia la classifica di Deloitte sulle 500 società high tech europee a maggior crescita, la faremo domani, oggi non ci stiamo. Allora torniamo a parlare di manovra. Ancora molti tassisti che scrivono, ripeto, il tema della liberalizzazione dei taxi non mi sembra epocale né in un senso né nell'altro, per cui non lo trattiamo. Quando dico che sono venute meno le liberalizzazioni promesse, che c'è stato poco coraggio, mi riferisco alle liberalizzazioni delle grandi lobby, delle grandi categorie. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Partiamo dall'elemento politico e poi arriviamo di nuovo anche ai dettagli della manovra, che bene ha già illustrato le modifiche poco, circa un'ora fa, Dino Pesole. Diciamo della contestazione della Lega, l'avete già ascoltata, a contestazione a Mario Monti, cartelli basta tasse, il richiamo molto duro del Presidente del Senato Schifani. All'uscita però la nostra Alessandra Schepisi ha raggiunto il capogruppo della Lega, Federico Bricolo, quello che Schifani invitava a farle vari cartelli, e ha chiesto perché il perché di una contestazione così forte al Senato. Abbiamo contestato il Presidente Monti perché questa, per quanto ci riguarda, non è una manovra ma è una rapina contro il Nord, contro i lavoratori e contro le famiglie. Non si risana un paese favorendo le banche e tagliando le pensioni mettendo la tassa sulla prima casa. Posizione politica assolutamente legittima, forse un po' meno legittima la contestazione, ma comunque insomma, non facciamo le verginelle su questo, ne abbiamo viste di tutte sia alla Camera che al Senato. Però Alberto Rioli, qui bisogna stare anche un po' attenti a come si gioca, qui c'è un governo tecnico però che è tenuto in piedi una maggioranza politica, la Lega giustamente può esprimere tutti i rilievi che vuole, lo fa anche Antonio Di Pietro dall'altra parte. Però uno dovrebbe anche ricordarsi che non c'era una proposta alternativa della Lega fino a un mese fa quando era al governo per uscire da questa palude. No, appunto, non più tardi di 25-26 giorni fa la Lega era al governo di quel governo che ha contribuito a portarci nelle secche in cui ci troviamo ora, in parte sottovalutando l'entità della crisi globale, organizzando prima del Ferragosto una manovra che era da 3 miliardi e mezzo, lo ricordo, salvo poi essere corretta 5 volte nel giro di una settimana e arrivare a circa 64 miliardi, perché rapidamente si era presa consapevolezza di quale tsunami ci sarebbe arrivato addosso. Non è bastato, evidentemente, la credibilità di quel tipo di classe politica di quel momento non ha tenuto alla prova della speculazione internazionale e dell'impatto dei mercati, che chiedevano una posizione evidentemente più seria, più razionale. Sì, tra l'altro, quando dico che non ho capito, non ho memoria di posizioni nel breve termine, mi riferisco, ripeto, anche alla riforma delle pensioni, che probabilmente, adesso la dico forse un po' grossa, se fosse passata a maggio poteva rappresentare un elemento di salvaguardia in più per il governo Berlusconi, cioè perché era una manovra strutturale. La Lega ha detto di no fino all'ultimo minuto, no alla riforma delle pensioni, smentendo se stessa, perché lo scalone Maroni, che è quello che poi fu introdotto nel secondo governo Berlusconi, era lo scalone Maroni, quindi poteva la firma del ministro del welfare di allora, Roberto Maroni. Adesso le modifiche, però anche per te un giudizio ancora più articolato su questo debutto del governo Monti, fermo restando che è intervenuto in situazione di emergenza, fermo restando che doveva dare una risposta immediata, che c'è stato un recupero della credibilità internazionale, è innegabile, anche oggi Angela Merkel ha detto dall'Italia sono arrivate misure serie, strutturali, su questo non si può dire nulla. Un po' più di coraggio delle volte, un po' più di coraggio, però vorrei sentire la tua opinione. 349-238-6666 per i vostri sms dopo il traffico. Allora, Alberto Rioli, banalmente, il governo Monti ha fatto tutto quello che un governo tecnico con una maggioranza, diciamo, allargata politica poteva fare, e quindi è inutile chiedere la riforma della politica che i politici non hanno saputo fare in questi anni. Farla fare a Monti, oppure proprio perché essendo un governo tecnico potendo puntare la pistola ai partiti dicendo o fate così o noi ci dimettiamo, però a quel punto vi arrangiate, andrete alle urne con un paese in bancarotta, poteva osare un po' di più sulle liberalizzazioni, sull'accordo fiscale con la Svizzera, sulle frequenze del digitale terrestre, non regalarle a Mediaset e a Rai, cioè su lì ce l'ha chiesto delle cose, e anche sulla lotta all'evasione con misure ancora più puntute. Beh, indubbiamente la grande aspettativa tradita, diciamo così, è quella sulle liberalizzazioni. È un appuntamento che non arriva al compimento nei tempi previsti, o meglio, ci è stato detto che effettivamente dal 1 gennaio del prossimo anno partirà l'iter per razionalizzare il tema. Ma in realtà l'effetto è stato quello di togliere un termine cogente, che era quello che bisognava fare la liberalizzazione entro l'agosto del prossimo anno, altrimenti sarebbe intervenuto d'ufficio il governo. È stato tolto questo, e riportando la discussione a partire dal 1 gennaio, e con un percorso alquanto illusorio ancora, effettivamente abbastanza accidentato, molto, per così dire, concertato, affidato non più a un regolamento ministeriale, che quindi avrebbe creato una responsabilità diretta dell'esecutivo, ma di nuovo a un decreto legge, quindi che di nuovo coinvolge il Parlamento. È evidente che le lobby parlamentari in questa fase si sono fatte sentire. Sarà e hanno contento avuto ragione. Paniz, la lobby degli avvocati, una delle più importanti, quella che minacciò di non votare la finanziaria a luglio, precipitando il paese, diciamo, nel default se non levavano la norma sugli ordini professionali. Grande lungimiranza. Abbiamo litigato in diretta con Paniz, non ho nessun problema. Credo che siamo l'unico Parlamento in Italia che ha più di un terzo dei propri membri che sono associati all'Ordine degli Avvocati. Se poi sì, si ma vale anche per l'Ordine dei Giornalisti, è chiaro che vale per ce ne sono molti, ma figurati. Le presenze degli ordini professionali sono piuttosto anche sulle farmacie, dire che sarà il Ministero a dover attuare i farmaci da banco, i farmaci da ricetta, la fascia C, vuol dire in sostanza sospenderlo. No, si creano quei meccanismi classici di rinvio e di obbligo di costruzione di un consenso all'interno dei meccanismi regolamentari, di commissioni, di authority e quant'altro, che poi non portano male a nulla, perché sono dei veri e propri Vietnam per chi vuole arrivare a un risultato e non ci arriva, perché la lobby è più forte in questo caso. E questo è il risultato con una certa evidenza anche oggi. Detto questo, è auspicabile che ci sia comunque una fase 2 per lo sviluppo, così come è stata detta. Vabbè, insomma, che si poteva, a mio avviso, agganciare alla fase 1, perché sappiamo che la politica dei due tempi in questo paese spesso non funziona, cioè c'è il primo tempo, quello dell'emergenza, e poi passata la festa, gabbato lo santo, e tutti si ritorna a traccheggiare politicamente e a ricattare anche il governo. Prego. Diciamo che fino adesso è venuto fuori bene come la manovra abbia interessato il cittadino risparmiatore, il cittadino lavoratore, il cittadino pensionato pensionando, il cittadino imprenditore, mai il cittadino consumatore. Effettivamente è una categoria un pochettino trascurata. Le liberalizzazioni, soprattutto quelle dei servizi pubblici municipali, porterebbero vantaggi anche in termini di tarifazione e quindi di vantaggi poi nei portafogli di ciascuno di noi, dei consumatori, che non sarebbero male in una vista la situazione in cui siamo adesso. E qui c'è il tema delle lobby. Dunque, sì, alcuni criticano, ma anche l'aumento della benzina. Sì, ci sono misure molto tradizionali. Anche qui io invito chi scrive a distinguere tra due cose. Le misure di emergenza, è chiaro che se tu devi tranquillizzare, per modo di dire, perché siamo ancora a 4,70 con lo spread, ma insomma devi bloccare il precipizio, alcune misure, benzina, pensioni e tasse in più, ICI, addizionali IRPEF, sono quelle che danno una garanzia immediata di gettito. Però sulle liberalizzazioni si poteva intanto disegnare un percorso. Mi sembra che sulle pensioni invece sia stata fatta una retromarcia, a mio avviso anche positiva, cioè la rivalutazione al 100% fino a 1.400 euro mensili sia nel 2012 che nel 2013, vuol dire tre quarti dei pensionati, cioè è qualcosa che blocca un elemento al di là delle lacrime della Fornero che rischiava di creare profonda disuguaglianza sociale. Beh, non c'è dubbio, quello era la cartina di tornasole più evidente per misurare il grado di equità della manovra. È chiaro che pensare di aver bloccato l'ingiustizzazione dell'inflazione per trattamenti da 400 euro come erano in primo tempo era una cosa francamente crudele e molto socialmente abrasiva. Adesso arrivare a coprire fino a 1.400 è una cosa che va incontro al ceto medio sostanzialmente. Questo è un provvedimento molto ben calzato sulla caratteristica anche dell'elettorato italiano, diciamo così. È stato un bene aver addolcito lo scalone che impattava così violentemente sulla classe del 52 sostanzialmente. Sì. Lì si sono guadagnati un paio d'anni virtuali, in realtà un anno, perché poi bisognava scontare la finestra mobile che già allungava di suo di un anno il periodo all'interno del quale chiedere il pensionamento d'anzianità. Comunque è un gesto di buona volontà, è importante anche aver chiesto il contributo di solidarietà, non di rapina per così dire, ma indicativo e simbolico alle pensioni di sopra i 200.000 euro, quindi da questo punto di vista sì, io aggiungo anche il 2% sui capitali scudati, anche lì, poi ripeto, l'accordo con la Svizzera, lì c'è l'Unione Europea che ha diffidato i vari paesi, dopo il caso tedesco e britannico, a fare altri accordi individuali con la Svizzera. Però, insomma, uno poteva intanto farlo perché... No, ma cioè, per carità, questo è giustissimo. L'accordo con la Svizzera l'ha fatto ed è giusto. Così come in termini generali è anche giusto insistere sull'idea di far pagare una tassa in più a chi ha scudato i capitali. Il problema è tecnico e di mantenimento della parola dello Stato, diciamo così. Io credo che abbia dei profili di incostituzionalità chiedere il superamento di quel tipo di concessione che comunque lo Stato ha deciso di fare. Io non sono un difensore personale di Tanno, però il professor Di Tanno, che voi è vostro commentatore editorialista, quindi lei dice: ma dal punto di vista però del profilo incostituzionale starei tranquillo. Sono d'accordo che non è bello tornare indietro, vale però anche per la pensione. Sì, è vero, ma è un profilo diverso perché riguarda la materia del segreto e della privacy, che è costituzionalmente tutelata di più, paradossalmente, di quella dell'aspetto previdenziale. E i primi ad avere qualche perplessità sono stati i tecnici della Camera, e quindi che conoscono gli impatti di questo tipo di materia assai meglio di me. Allora, dice un ascoltatore, sempre sudditi mai cittadini, che è un po' il ragionamento che faceva Alberto Orioli sul fatto che sul fronte cittadini intesi come pensionati, lavoratori dipendenti, proprietari di casa, cos'altro posso aggiungere, non lo so, contribuenti certo, quello siamo presenti, cittadini come consumatori un po' meno, perché ripeto, le liberalizzazioni dei farmaci, piaccia o non piaccia, da banco, hanno portato, dato dell'antitrust, un 20% di calo da quando sono state introdotte nel prezzo dei farmaci, sia nelle parafarmacie che nelle farmacie normali, perché è chiaro che se c'è concorrenza poi vai su questo. Domani il Sole 24 Ore tra l'altro esce con tutto un dorso, come si chiama, in gergo, che in realtà è insomma un altro giornale, esattamente, dedicato alle ultime novità sulla manovra. Sì, praticamente faremo definitive, ci auguriamo. Sì, lo facciamo perché effettivamente il testo di cui siamo che abbiamo è quello definitivo, che funzionerà nella navetta parlamentare in modo finale. Quindi faremo due giornali sostanzialmente, uno tutto dedicato alla manovra, i 24 pagine, dove spiegheremo il dettaglio dei singoli impatti, appunto, per i profili diversi dei diversi cittadini, imprenditori, famiglie, persone, lavoratori, pensionandi, risparmiatori, investitori e quant'altro, tutto quello che accadrà nella loro vita di tutti i giorni dovuto agli impatti della manovra, perché tendiamo a sottovalutare l'impatto sul quotidiano di ciascuno Che i questa manovra ascoltatori, avrà. Immagino che lo sapranno benissimo, però glielo spiegheremo ancora meglio domani. Ecco perché è utile, ma sono molto più attenti di certi politici o altri, diciamo così, elementi della cosiddetta classe dirigente. Una buona notizia per chiudere: è tornato alto lo spread, e quindi la differenza tra quanto costa noi indebitarci e quanto non costi alla Germania, con la conseguenza che più paghiamo il debito e più tagliamo poi la spesa anche sociale, e comunque dobbiamo tagliare in ogni caso, a 487 punti. Il rendimento del BTP a 10 anni vola al 6,80%. Io ringrazio Alberto Rioli. Noi domani racconteremo un'altra giornata, sperando a questo punto, con il profilo della manovra chiuso, di poterci occupare anche di altri aspetti dell'economia e della finanza reale. Comunque, da Sebastiano Barisoni l'augurio anche questa sera di una buona serata. Radio 24. Il Natale si sente.